La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al ruolo della propaganda durante la guerra partigiana di liberazione dell'Italia, occupata dai nazifascisti. Ospite ai nostri microfoni Gioachino Lanotte, autore del libro Il Quarto Fronte, musica e propaganda nell'Italia liberata, appena pubblicato dall'editore Morlacchi. Dal 1943 al 1945, accanto alla guerra per la liberazione dall'occupazione nazifascista, si combatté un'altra guerra parallela, una guerra psicologica, potremmo definirla, non meno rilevante della prima, una guerra affidata agli strumenti di cui poteva disporre allora la propaganda. In primo luogo, naturalmente, la radio, strumento decisivo per veicolare messaggi alla popolazione civile. Proprio la radio, si legge nel libro di Gioachino Lanotte dal titolo Il Quarto Fronte, musica e propaganda nell'Italia liberata, appena pubblicato da Morlacchi editore, proprio la radio rivelò un'efficacia e un'incisività superiori a ogni altro strumento di propaganda. Fossero manifesti, volantini, slogan, il cinema, i giornali, ma anche le canzonette. All'interno della propaganda radiofonica, la musica leggera giocò un ruolo fondamentale durante il complesso periodo di transizione, di lacerazioni e violenze vissuto dal nostro paese dopo l'8 settembre del 1943. Le traiettorie dell'etere che attraversarono il cielo sull'Italia divisa furono molto fitte e alquanto intricate. A rendere variegata la mappa di quel periodo contribuirono diverse voci. Radio ripristinate e controllate dagli alleati nell'Italia del Sud, radio clandestine, pseudo-emittenti, singole testate dedicate a temi specifici della propaganda, stazioni partigiane e collaborazioniste, oltre naturalmente alla rete EIR-RSI del governo di Salò, che prevedeva un canale nazionale e diverse emittenti parallele. Il primo modello radiofonico all'indomani dello sbarco alleato si realizza proprio in Sicilia. Le truppe del generale Patton operano immediatamente per ripristinare gli impianti e il trasmettitore di Borgata Uditore che i guastatori tedeschi, prima della loro ritirata, si erano assicurati di rendere inutilizzabili. Comincia così la guerra parallela della propaganda di grandissima importanza, dicevamo prima. L'operazione si inserisce nello sforzo degli alleati di riattivare il sistema dell'informazione dopo il ripiegamento delle forze dell'asse. Gli scopi di questa azione militare, combattuta sul quarto fronte, appunto, sono rintracciabili in un sommario firmato dal colonnello Heseltine, comandante del Psychological Warfare Branch. Usando le radio locali, poster, film, giornali e cose del genere, questo gruppo dà l'assicurazione alla popolazione locale che gli eserciti alleati sono venuti come liberatori e che i principi per cui tali eserciti combattono sono più solidi di quanto in media e dovunque si creda, laddove le popolazioni non sono sotto il dominio dei dittatori di un tipo o dell'altro. I risultati sono immediati. E già il 6 agosto del 1943 esce il primo numero del quotidiano Sicilia Liberata, diffuso in 40.000 copie, e comincia a operare una trasmittente in grado di raggiungere quei 400.000 siciliani che ascoltavano la radio almeno una volta al giorno. Di questa primissima attività di propaganda parliamo proprio con l'autore del libro, Gioachino Lanotte, che è docente di storia europea e vita internazionale nell'età moderna e contemporanea all'Università Statale di Milano. Buonasera e benvenuto. Buonasera dottor Pesole, buonasera a chi ci ascolta. Allora, perché questo titolo, Il Quarto Fronte? Perché, insomma, appunto, come avete detto bene nell'introduzione, la radio durante la Seconda Guerra Mondiale soprattutto rivela un potenziale anche bellico per quello che è la propaganda notevole, mai rivelato prima, e quindi associato ai tre fronti tradizionali, esercito, marina e aviazione, che caratterizzavano i conflitti precedenti, io ho pensato di dare, insomma, la giusta rilevanza a quello che significò la radio in contesto bellico in quegli anni, chiamandolo appunto il quarto fronte, l'attività delle stazioni e delle emittenti. Quindi soprattutto la radio è il focus del suo libro. Sì, la radio, ma all'interno della radio, il ruolo che giocò la musica proprio leggera, le canzonette, come diciamo traccia luminosa per veicolare la propaganda radiofonica, questo su entrambi i fronti. Questo è importante, è anche interessante, cioè la musica che viene utilizzata dalle forze alleate come strumento, se vogliamo, di propaganda ma anche di informazione, ma in che modo? Ma intanto in modo molto materiale, nel senso che le stazioni, avete parlato di Radio Palermo, quando gli americani arrivano a Palermo i tedeschi hanno distrutto completamente impianti, archivi, eccetera. Quindi in base a un progetto che era stato varato dal Dipartimento della Guerra in America, che era il progetto dei famosi V-Disc, cioè i Victory Disc, i maggiori artisti americani, proprio Frank Sinatra, Tommy Dorsey, Lionel Hampton, eccetera, si offrono gratuitamente per incidere questi microsolchi che hanno lo scopo di allietare la vita dei soldati al fronte, questo su tutti i teatri di guerra. Quindi quando gli americani arrivano in Italia si portano anche degli scatoloni di dischi jazz, di puro jazz, che servono ad attivare le stazioni, insomma, tra un bollettino di guerra, un notiziario e l'altro, insomma, a intrattenere e a fidelizzare un po' l'ascolto. Poi c'è anche un problema di incontro con la musica italiana, che è il cuore, l'orizzonte un po' concettuale del libro, perché attraverso questo incontro tra i modelli culturali nuovi e la nostra tradizione viene fuori un'alchimia che è tutta da vedere, che cambia da città a città, pone dei semi importantissimi per quello che sarà il dopoguerra, cioè la trasformazione della società italiana nel dopoguerra, che pone dei problemi di confronto fra i dirigenti italiani e le autorità alleate. Ecco, e oltre a questo poi c'è il ruolo tradizionale della radio, che peraltro non è poi nemmeno una novità, perché noi ricordiamo ad esempio l'importanza che ebbe la radio anche negli anni 30 e venne usata per i discorsi al caminetto, ricordo proprio nell'immediato periodo che seguì la crisi del 29, quindi insomma è importante il ruolo anche informativo, vero e proprio. Dice benissimo, perché anche dal punto di vista dei criteri del giornalismo, i famosi criteri del giornalismo anglosassone, quelli delle W, criteri che oramai sono noti a tutti, almeno dovrebbero esserlo, vengono diciamo presentati al pubblico italiano come una novità, se si pensa a quello che era la radio layer del regime, con le voci, non so, di Nino da Roma, di Apelius, di Ansaldo, di Forges d'Avanzati, per cui i discorsi del caminetto di Roosevelt, che ha citato lei, ma anche la voce del colonnello Buonasera, che da Radio Londra in modo molto assolutamente pacato e confidenziale dischiudeva degli orizzonti della comunicazione nuovi per gli italiani. Ricordo che oltre a queste radio gli italiani ascoltavano anche clandestinamente Radio Londra. Ecco, quindi in ognuna di queste radio arriva anche un nuovo modo di fare giornalismo. Vorrei solo ricordare per esempio il padre di Riotta, che è un altro giornalista famosissimo, che non ha bisogno di presentazioni. Col padre collaborò all'esperienza di Radio Palermo, e una volta Misha Kamenevsky, che era poi il famoso Ugo Stille, che lavorerà al Corriere della Sera negli anni 50 e 60, lo chiamò in redazione rimproverandolo perché la notizia che doveva andare in onda non aveva neanche una sconfitta da parte alleata. Allora gli ha buttato lì la velina e ha detto: qua dovete trovarci una sconfitta, chi vuole che ci creda se noi gli spargiamo delle notizie così. E allora Riotta fu costretto ad andarsi a cercare una nave affondata da qualche parte. E quindi proprio degli esempi di giornalismo radiofonico proprio dell'età moderna. Infatti, quindi siamo dentro il meccanismo di informazione che conosciamo bene, ma dalla indagine che ha condotto molto dettagliata, devo dire, nel libro su gran parte delle emittenti che operarono in Italia in quel famoso fatidico tragico biennio 43-45, cosa ha scoperto poi oltre alla realtà siciliana, che fu la prima che accolse un tentativo, ma anche andato a buon fine, di propaganda attraverso questo strumento? Ho scoperto visto delle peculiarità anche regionalistiche, città per città, delle peculiarità di ognuna di queste radio. Praticamente si è trattato di risalire il territorio insieme agli alleati, però invece che secondo il profilo della campagna militare, che quello è già stato raccontato ampiamente, secondo questo profilo della ristrutturazione delle emittenti radiofoniche. Allora, Palermo ha la peculiarità di essere stata la prima, Bari invece dove si è coagulate tutte le energie dell'antifascismo liberale, Croce, il Conte Sforza, Arangio Ruiz, eccetera, eccetera, che intorno anche alla casa editrice La Terza, alla libreria, davano vita proprio a quell'antifascismo che poi varerà il primo governo nella primavera del 44 di Intesa Nazionale. E tutto questo fermento nasce a Bari, insieme ovviamente a tanta musica italiana, che nel caso specifico lì era organizzata dal maestro Giannini e dal maestro Vitale. Napoli ha intanto le voci che cambiavano, diventavano le voci di Arnoldo Foà, di Ubaldo Lai, quelle che poi ci sono diventate care in tutta l'Italia repubblicana, ma voci appunto di un giornalismo diverso e di una comunicazione molto diversa. Ed ebbero un ruolo importantissimo nella fase, di liberazione dell'Italia dall'occupazione. Infatti, Palermo ha la particolarità di avere, anche grazie appunto allo zoccolo duro della grande tradizione musicale che c'è in quella città, l'esperienza addirittura più vitale, Napoli, dopo Palermo-Napoli, perché anche i locali che gravitano intorno alla radio sono un terreno d'incontro fra i militari, i musicisti italiani che sono bravissimi anche a leggere la musica a prima vista, mentre i jazzisti americani sono più dediti all'improvvisazione, quindi la musica diventa anche un argomento di incontro, a volte anche molto poco culturale, se si pensa al fenomeno delle signorine, certo, e dell'ambiente di Napoli. E poi Roma si tratta di tornare a quello che era il cuore della radiofonia nell'epoca fascista, che era stato un po', via Asiago era stato un po' depotenziato quando Mussolini ripristina a Salò il nuovo fascismo, quindi per parecchi mesi la Radio Roma, occupata dai nazifascisti, era stata un po' sottotuono, aveva acquisito quasi un carattere regionalistico, con trasmissioni come Aria di Roma, eccetera, dove peraltro lavorava il padre di Veltroni, cioè Vittorio, certo, Veltroni, e il fratello di Corrado Mantoni, il noto presentatore. Ecco, Riccardo Mantoni e Vittorio Veltroni erano autori di testi. E poi con l'arrivo del PVB e del Psychological Welfare Branch e degli alleati, anche Radio Roma dallo giugno 54 acquista una vitalità nuova e che è una buona metafora conoscitiva per capire quello che sarà la radio del dopoguerra, che in fondo è uno dei primi territori di ricostruzione nazionale. Benissimo, tante grazie a Gioacchino Lanotte, autore di questo interessante libro, Il Quarto Fronte, Musica e Propaganda nell'Italia Liberata. Buonasera. Grazie a voi, buonasera.